Al-Waqia. L'evento. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Iza waqa'ati al-waqi'ah. Quando accadrà l'evento? Laysa li waqa'atiha kadhiba. La cui venuta nessuno potrà negare. Khafidatun rafi'ah. Abbasserà qualcuno e altri innalzerà. Iza ruggatil ardu raggia. Quando la terra sarà agitata da una scossa. Wa bussatil jibalu bassa. E le montagne sbriciolate. Fa kanat haba'an munbassa. Saranno polvere dispersa. Wa kuntum azwajan thalatha. Sarete allora divisi in tre gruppi. Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah. I compagni della destra. E chi sono i compagni della destra? Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. I compagni della sinistra. E chi sono i compagni della sinistra? Was-sabiqun as-sabiqun. I primi. Sono davvero i primi. Ulaika al-muqarrabun. Saranno i ravvicinati ad Allah. Fi jannatin na'im. Nei giardini delle delizie. Sullatun min al-awwalin. Molti tra gli antichi. Wa qalilum min al-akhirin. Pochi tra i recenti. Ala sururin mawduna. Su divani rivestiti d'oro. Muttakiina alaiha mutaqabilin. Sdraiati gli uni di fronte agli altri. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Vagheranno tra loro fanciulli di eterna giovinezza. Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Recanti coppe, brocche e calici di bevanda sorgiva. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Che non darà mal di testa né ebbrezza. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. E i frutti che sceglieranno? Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. E le carni d'uccello che desidereranno. Wahurun 'ayn. E ci saranno colà le fanciulle dei grandi occhi neri. كأمثال اللؤلؤ المكنون simile a perle nascoste. جزاء بما كانوا يعملون compenso per quel che avranno fatto. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما Colà non sentiranno né vaniloqui né oscenità. إلا قيلا سلاما سلاما Ma solo pace, pace. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين E i compagni della destra? Chi sono i compagni della destra? في سدر مخضود Saranno tra i loti senza spine. وطلح منضود E banani dai caschi ben colmi. وظل ممدود Tra ombra costante. وماء مسكوب E acqua corrente. وفاكهة كثيرة E frutti abbondanti. لا مقطوعة ولا ممنوعة Inesauribili e non proibiti. وفرش مرفوعة Su letti elevati. إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً Le abbiamo create perfettamente. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا Le abbiamo fatte vergini. عُرُبًا أَتْرَابًا Amabili e coetanee. Li ashabil yamin. Per i compagni della destra. Thullatun min al-awwalin. Molti tra gli antichi. Wa thullatun min al-akhirin. E molti tra gli ultimi venuti. E i compagni della sinistra? Chi sono i compagni della sinistra? Fi samumin wa hamim. Saranno esposti a un vento bruciante, all'acqua bollente. All'ombra di un fumo nero. La baridin wa la karim. Non fresca, non piacevole. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. Già furono genti agiate. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. Persistevano nel grande peccato. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. E dicevano: dopo che saremo morti e ridotti in polvere d'ossa, saremo forse resuscitati? أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. E così pure i nostri avi? قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. Di, in verità, sia i primi che gli ultimi لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Saranno riuniti nel convegno del giorno stabilito. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. Quindi in verità, voi traviati, voi negatori, لآكلون من شجر من زقوم. Mangerete dall'albero zaccum. فمالئون منها البطون. Ve ne riempirete il ventre. فشاربون عليه من الحميم. E ci berrete sopra acqua bollente. فشاربون شرب الهيم. Berrete come cammelli morenti di sete. Ecco cosa sarà offerto loro nel giorno del giudizio. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Siamo noi che vi abbiamo creato. Perché non prestate fede? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ. Non riflettete su quello che eiaculate. أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. Siete forse voi a crearlo o siamo noi il creatore? نَحْنُ قَدْ قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. Abbiamo decretato per voi la morte e non potremo essere sopravanzati. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. Nel sostituirvi con altri simili a voi e nel farvi rinascere in forme che ancora non conoscete. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. Già conoscete la prima creazione. Perché non ve ne ricordate? أفرأيتم ما تحرثون. Non riflettete su quello che coltivate. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Siete voi a seminare o siamo noi i seminatori? لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. Certamente, se volessimo, ne faremmo paglia secca, e allora stupireste e direste: Inna lamughramun. Siamo oberati di debiti. Bal nahnu mahrumun. Del tutto diseredati. Afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun. Non riflettete sull'acqua che bevete. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Siete forse voi a farla scendere dalla nuvola o siamo noi che la facciamo scendere? لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Se volessimo, la renderemmo salmastra. Perché mai non siete riconoscenti? أفرأيتم النار التي تورون. Non riflettete sul fuoco che ottenete sfregando. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. Siete stati voi a far crescere l'albero che lo alimenta o siamo stati noi? نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Ne abbiamo fatto un monito e un'utilità per i viaggiatori del deserto. فسبح باسم ربك العظيم. Glorifica dunque il nome del tuo Signore, il Supremo. Fala uqsimu bima waqi'in nujum. Lo giuro per il declino delle stelle. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. E questo è giuramento solenne, se lo sapeste. Innahu laqur'anun karim. Che questo è in verità un Corano nobilissimo. Fi kitabim maknun. Contenuto in un libro custodito. La yamassuhu illa al-mutahharun. Che solo i puri toccano. Tanzilum min rabbil alamin. È una rivelazione del Signore dei mondi. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ. Di questo discorso vorreste sospettare? وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. La vostra riconoscenza sarà tacciarlo di menzogna? فلولا إذا بلغت الحلقوم. Perché mai, quando l'anima risale alla gola. وأنتم حينئذ تنظرون. Sotto i vostri occhi. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. E noi gli siamo più vicini, ma non ve ne accorgete.